Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te. E vi è capitato di svegliarvi invece la mattina con un forte mal di testa? Beh, certo, non è un buon modo per iniziare la giornata, ma può capitare. Allora che fare? Ne parliamo oggi con il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, ben trovata. Professore, perché il mal di testa del mattino sembra ancora più violento e forte, invalidante di quello che invece può insorgere durante la giornata? Cioè, alzarsi con la testa che scoppia è davvero destabilizzante. Ma il primo motivo è che abbiamo perso l'inizio del mal di testa e ce ne accorgiamo perché ci sveglia quando è già intenso. Noi sappiamo che il mal di testa, in particolare l'emicrania, è un processo, è l'arrivo di un temporale, e se io non mi proteggo alle prime gocce, insomma, mi inzuppo. Quindi svegliarsi nelle prime ore del mattino, anticipare la sveglia per questo forte mal di testa, vuol dire che la parte iniziale è stata per noi coperta dal nostro sonno. Attenzione bene, ma perché svegliarsi? Ma di notte il cervello dovrebbe riposare, invece no, la breaking news è diversa. Che di notte il cervello lavora, e come, anzi lavora per se stesso e fa la propria manutenzione, e molte cefalee che sono dovute alla iperfunzione del cervello, a un inutile eccesso di zelo, colpiscono proprio nella notte, quando il cervello è al massimo dell'attività per fare tutta la sua opera di rimessaggio. Professore, come e cosa ci racconta l'esordio del nostro mal di testa? Ci sono dei mal di testa che montano, che iniziano, no? Lentamente, poi scoppiano, e ci sono invece dei mal di testa che si presentano già con un ritmo bello acceso, pulsante. Il male è già subito male, come mi verrebbe da dire così per descriverlo. Beh, comincio dalla seconda parte. Il mal di testa che comincia in maniera brutale, e cioè che ha un'accelerazione da 0 a 100 in pochi secondi, è un mal di testa in genere da indagare, perché potrebbe essere anche espressione di qualcosa che non va. Noi sappiamo invece che l'80% dei mal di testa, per fortuna, sono inutili manifestazioni muscolari del cervello, il quale dà prova di sé, fa delle prove tecniche di salvezza attivando il circuito di difesa. Ma ci può dire qualcosa anche l'orario in cui compare il mal di testa al risveglio nel corso della notte. Incominciamo a dire che tra le 5 e le 6, direi anche le 4 di notte, le 6 e le 6, è l'orario scelto dall'emicrania. L'emicrania, insomma, colpisce nell'orario in cui abitualmente si va a caccia. Mentre invece, se il mal di testa comincia intorno all'una di notte, quindi nel pieno della notte, per chi va da letto in orari normali, qua potrebbe trattarsi di cefalea a grappolo, ed è una regola. Attenzione bene, se il paziente emicranico, abituato ad avere i mal di testa tra le 4 e 5 del mattino, si accorge però di essere svegliato nel pieno della notte, all'una, alle due di notte, cosa che a lui non succedeva mai, si controlli la pressione. Perché se la pressione alta, specie la minima, si siede su un cervello emicranico, gli fa anticipare l'orario. Quindi noi diciamo ai nostri pazienti, non solo dimmi se ti viene di notte, ma segnati l'orario in cui ti viene, perché ci può dire molte cose. Invece, professor Barbanti, il mal di testa che insorge durante il giorno o il pomeriggio, quali elementi dobbiamo considerare che ci possano aiutare un po' a capire la natura di questo dolore? Sì, intanto guardiamo che rapporto ha con lo stress. Se è un mal di testa che ci capita nel momento in cui siamo più tesi, più snervati, più sopraffatti dalle nostre attività, si tratta verosimilmente della cefalea di tipo tensivo. La cefalea di tipo tensivo ti prende sulla cima della montagna, mentre invece se compare dopo che abbiamo mollato lo stress durante la discesa, immaginiamo di scollinare con la bicicletta il colle della fatica, si tratterà invece dell'emicrania che attacca l'organismo quando noi stacchiamo la tensione nervosa. In genere le cefalee che cominciano nella seconda metà del giorno sono quasi tutte forme tensive, mentre invece, come dicevamo, l'emicrania, che è dovuta a questo super lavoro del cervello iperzelante che capta tutto e trasforma tutto in dolore per essere così, per eccesso di zelo, prevale nella primissima parte della giornata. Professor Barbanti, qualche giorno fa la cefalea cronica è diventata malattia sociale, è stata riconosciuta e così classificata da una nuova legge. Nel concreto, che cosa significa? Beh, intanto significa che è successo quello che è successo per il bruciore di stomaco, che è stato finalmente chiamato reflusso gastroesofageo e ha salvato la qualità della vita di tante persone. Le cefalee croniche sono malattie terribili perché sono disabilitanti, sono gocce cinesi che non si vedono. Quali sono le più frequenti? Nettamente l'emicrania cronica, ma anche la cefalea tensiva cronica, cioè il casco alla testa, e alcune terribili forme di cefalea a grappolo cronica. Ma il paziente dice: ma io ce l'ho cronica perché ce l'ho due volte al mese, ma comunque da tutta la vita. Beh, per cronica si intendono quelle forme di mal di testa presenti almeno 15 giorni al mese da almeno 3 mesi. Fino adesso non venivano considerate, che se non dai ricercatori, dai medici, per quello che erano, ma purtroppo non avevano un domicilio, diciamo così, sufficiente da un punto di vista normativo per essere considerate patologie degne anche di accessi, semmai in ospedale, o trattamenti importanti. Questa legge sdogana la biologia, perché ricordiamoci che le cefalee croniche sono tra le malattie più disabilitanti del genere umano. E poi una cosa: quasi tutte le malattie possono essere possedute e presentate dagli animali, mai le cefalee. Quindi è un retaggio ed è una caratteristica di un cervello molto sviluppato. Pensate quindi quale sia la beffa: tanta più attività cerebrale, tanto più mal di testa. Si aprono delle nuove scenari di terapia, di cura e di riconoscimento. Come al solito, però, c'è l'onere della prova, queste cose devono essere certificate, visitate da specialisti, e il paziente però sa di poter avere d'ora in poi forse qualche tutela in più. Professor Barbanti, ci aiuti a raccogliere le informazioni utili per prevenire e gestire un attacco. Non le chiedo naturalmente di aiutarci a risolvere un attacco di cefalea cronica, in questo caso è bene rivolgersi ad un centro per la cefalea, ci sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, ma vorrei che lei ci aiutasse a evitare degli errori nella gestione di questo dolore, che è molto invalidante, anche se passeggero e se viene a trovarci non di frequente. Allora, incominciamo a dire che per evitare di incorrere nell'attacco di emicrania, che è la forma più frequente, ma in generale di cefalea, dovremmo fare i peccati uno per volta, non tutti assieme. All'uno, perché è un po' come la patente a punti, ti viene tolta come tante infrazioni. E quindi, voglio dire, il venerdì sera, ad esempio, tipico, faccio tardi, mangio troppo, la mattina dopo mi alzo più tardi e in più bevo anche qualcosa in più. Quindi cercare intanto di non modificare tutti i nostri ritmi assieme lo stesso giorno. Pensiamo al caso tipico: vado in montagna a Natale e così, quindi ho l'ascensione in quota, il cambio termico, magari mangio di più, bevo anche qualcosa per scaldarmi, quindi un controllo dello stile di vita è essenziale. Quando l'attacco compaia, e mi riferisco in particolare all'attacco di emicrania, al di là di ciò che posso ingurgitare in quel momento di analgesico, magari si spera prescritto, alcune norme devono valere, e cioè l'isolamento. Indossare gli occhiali da sole, per esempio, se sono durante il giorno o comunque essere in una zona di penombra, applicare il freddo, che nel caso dell'emicrania ovviamente ha un effetto vasocostrittivo, e un riposo non tanto da sdraiato, perché il sangue si sentirebbe pulsare maggiormente, ma il riposo psicosensoriale. Insomma, metterci in una condizione di quiete. Poi, ovviamente, l'analgesico, la terapia sintomatica, farà il suo debito corso. E non dimentichiamo il caffè. E il caffè. Che è uno strumento terapeutico importante. Professore, solo una domanda. L'analgesico va preso subito avverto il dolore, prendo l'analgesico, oppure vedo come va, come butta, se il mal di testa insomma diventa più forte oppure se si spegne. Questa volta mi voglio proprio sbilanciare e diamo dei numeri. Se ho un mal di testa, direi entro le 5 volte al mese, quindi una volta a settimana ai primissimi segni. Altrimenti direi non proprio i primi ma i secondi segni. Perché? Perché se io incomincio a trattare troppo spesso i miei attacchi, che magari alcuni possono essere anche abortivi, troppi analgesici possono indurre mal di testa. Però chi abbia emicranie non ad alta frequenza li prenda immediatamente i primi sintomi, altrimenti aspettiamo un secondo. Utilizziamo per esempio un caffè molto concentrato, o meglio un caffè ricco di caffeina, quindi un caffè lungo, e in questo caso vediamo se l'analgesico serva o meno. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una grazie. Buonissima giornata e spero di sentirla presto. Buona giornata a tutti voi. Grazie, ringrazio Carmelo Lauricella che regia la parte tecnica, Laura Vanossi che è in assistenza ma anche in redazione. Vi do appuntamento come sempre dopo il GR delle 12 per gli appuntamenti che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.